4. Ogni volta che Kana Yohari si apriva la vista, Joseph Brandt pensava al destino della sua gente. Ai piedi della collina, il fiume Mohawk faceva un'ansa e chiudeva i campi e le abitazioni di legno, costruite sul modello delle lunghe case. Quando la nazione era ancora numerosa, le dimore tradizionali avevano tenuto fede al nome. Potevano ospitare fino a 300 persone. Ora l'intero villaggio non ne contava altrettante. Le dimensioni delle case si erano molto ridotte. Non c'erano uomini per riempirle e i Mohawk si erano abituati a vivere come i bianchi. Quelli di condizione più elevata avevano i vetri alle finestre e i coloni più poveri li guardavano con invidia. Solo il territorio delle Sei Nazioni continuava a essere una lunga casa, per quanto simbolica. I Seneca difendevano la parte occidentale, i Mohawk quella orientale. Al centro, gli Onondaga custodivano il fuoco. Cayuga, Oneida e Tuscarora aiutavano i tre fratelli maggiori nei loro compiti ancestrali. Sul sentiero che saliva dal villaggio, Joseph scorse una sagoma che gli correva incontro. Dopo la visita alla tenuta di Klug, mezza spedizione aveva sbagliato sentiero, persa nelle nebbie del Rum. Le urla alcoliche avevano svegliato i cani nel raggio di un miglio. Braccati dalle bestie, i guerrieri si erano sparpagliati nei dintorni. Qualcuno era crollato a terra, vinto dal sonno. C'erano volute ore per radunarli tutti e rimettersi in strada. Chi si era dipinto il volto esibiva una maschera sfatta e poco dignitosa. «Fort Ticonderoga!» urlò Peter Johnson, appena lo zio fu a portata di voce. Quando lo ebbe raggiunto, proseguì: «I ribelli! Hanno preso Fort Ticonderoga! Senza sparare un colpo!» Joseph guardò il nipote. Negli ultimi mesi si erano visti di rado. Dopo la morte del padre, Peter era tornato da Filadelfia solo un paio di volte. «Li comanda un certo Ethan Hallen. Sai chi è, zio Joseph?» «È un bandito delle Green Mountain. Da anni combatte contro il governatore. Vieni, andiamo da tua madre.» Joseph sentì un brivido attraversare gli uomini dietro di sé. I guerrieri avrebbero preferito 100 frustate piuttosto che mostrarsi a Molly in quelle condizioni. Con diverse scuse si dispersero ognuno per la sua strada. Zio e nipote si incamminarono da soli. Lungo il sentiero, uomini e donne affrettavano il passo come alle prime gocce di un temporale, poi si fermavano di colpo, risucchiati dal primo assembramento. Le porte delle case erano spalancate per non sbarrare il passo alle notizie. Non c'era ragazzo che non si improvvisasse messaggero, di corsa, dalla chiesa al molo dei battelli fino alle fattorie più distanti. La stanza principale dell'emporio si sviluppava in lunghezza. Tra volute di polvere e fumo, le merci occupavano ogni anfratto, mensola o scaffale, quando non pendevano dalle travi del soffitto. Corde di canapa, scatole di legno con chiodi, stoppini, acciarini, casse di pigmenti per guerrieri, marcate da ideogrammi cinesi, specchi per dipingersi il volto, candele, attrezzi, pietre focaie, vernici, e poi coperte, incerate, pelli, vestiti di varia foggia e taglio, alimenti freschi e secchi, affumicati e sottosale. Infine, dentro piccole botti, l'indiscusso sovrano di ogni emporio, spaccio o stazione di cambio nel raggio di centinaia di miglia, il Rum. Joseph salutò la sorella, intenta a convincere un cliente che i suoi scellini erano falsi, buoni giusto per un'elemosina da spilorci. Peter si offrì subito per una perizia, garantita e infallibile. La madre lo benedisse e con un cenno invitò Joseph a seguirla. Dietro una tenda di lino grezzo si nascondeva un ambiente raccolto, riservato alle trattative e agli ospiti di riguardo. Il tavolino basso e le sedie a dondolo poggiavano su un tappeto di seta orientale. Sulla parete di fondo, gradini di legno portavano agli appartamenti privati. Molly si affacciò sulla scala e ordinò che qualcuno portasse del tè. Poi sistemò un cuscino sulla poltrona, sedette e prese a scacciare le mosche con un ventaglio di pizzo. Joseph la guardava. Era più vecchia di lui di 8 anni. Nella lunga treccia spiccavano capelli bianchi. Una giovane serva nera scese nella stanza con un vassoio d'argento e porcellane cinesi. Joseph riconobbe il servizio. Arrivava dal salotto di Johnson Hall. «Ti manca ancora la vecchia casa?» le domandò. Molly scrollò appena le spalle. «Mi mancano le mie cose, i mobili che avevo scelto, le stoviglie comprate con William ai magazzini di New York, La governante di Sir John mi ha detto che stanno fondendo l'argenteria per paura che i ribelli possano requisirla. L'atmosfera ovattata avvolgeva Joseph. Odore di cuoio, granaglie e zucchero di canna. Ogni cosa era a portata di mano. Chiarore filtrava dall'unico lucernario. Soffiò l'aria tra i denti e deglutì il tè. «I coloni sono sempre più arroganti. Da quando tuo marito è morto, la legge dei bianchi si difende a stento». «Per la legge dei bianchi, Sir William non era nemmeno mio marito». Joseph sfilò da sotto la giacca un foglio ripiegato. «Questo non potranno ignorarlo». Porse la carta a Molly, che la aprì e la scorse con gli occhi. «La firma di Klug è autentica», precisò il fratello. «Bisogna mandare ad Albany una persona fidata. Va consegnato al tribunale della colonia». Molly accennò un sorriso e ripose il documento sul vassoio. «Il postale di questa mattina ha portato notizie dal nord. I bostoniani hanno preso Ticonderoga e puntano sul Canada». «La ribellione si allarga», annuì Joseph, «e la lunga casa deve scegliere la sua guerra, prima che la guerra scelga la lunga casa». Seguì un silenzio, sporcato solo dal vociare che giungeva da oltre la tenda. Molly si dondolava appena sulla sedia. «Molti dicono che è una faccenda tra inglesi, ma la terra è nostra e i patti li abbiamo siglati con Re Giorgio». Joseph si alzò e scostò la tenda. Peter aveva convinto il cliente e gli porgeva il libro dei crediti per una firma. Il ragazzo era in gamba. Viveva in una grande città, da solo e senza timori, fiero delle sue origini e del suo nuovo sapere. Parlava e scriveva in tre lingue, inglese, francese e mohawk. Leggeva la musica, suonava il violino, si impratichiva nel commercio. Presto avrebbe dimostrato ai guerrieri anche il suo coraggio. Sir William e Molly avevano immaginato un grande avvenire per il loro primogenito. Il ragazzo non li avrebbe delusi. A suo agio tra i bianchi e nella lunga casa, già a 16 anni, incarnava il futuro della nazione. Joseph fece un passo indietro, si voltò e riprese il filo dei pensieri. «Che avrebbe fatto, Sir William?» Molly scrutò la superficie scura nella tazza. Le parve di rivedere le acque del sogno e la canoa che navigava controcorrente verso la terra dove dorme il sole. «Glielo chiederò nei sogni. Di sicuro avrebbe difeso la valle, il mondo costruito insieme a Hendrik».